Sappiamo che la dinamica salariale in questo paese è scarsa, se non addirittura negativa, soprattutto in termini di potere d'acquisto, data appunto il periodo di inflazione che stiamo vivendo. L'abbiamo vissuto subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, lo stiamo rivivendo adesso con l'attacco all'Iran sostanzialmente da parte degli Stati Uniti. Quello che fa il governo è davvero una specie di decreto fuffa, nel senso che in realtà fuffa fino a un certo punto, ma istituzionalizza sostanzialmente le paghe basse. Viene istituito il salario giusto come il salario in termini di trattamento economico complessivo, che fa parte dei contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, quindi CGIL, CISL e UIL, e in qualche modo fa fuori quelli che vengono considerati contratti pirata, perché sappiamo che pagano sempre meno. Appunto, questi contratti pirata di solito non li fanno i lavoratori, ma sono dei sindacati gialli al soldo delle imprese che li stipulano, quindi anche questo ricordiamoci che non è un problema dei lavoratori, ma di un sistema economico e produttivo che prova a comprimere il costo del lavoro. Quello che fa questo decreto però, che dice che sostanzialmente va ad attaccare l'1,8% di lavoratori coperti da questi contratti pirate, ovvero la dinamica salariale stagnante dipende da questi pochi, tanti contratti che non rappresentano nessuno, mentre tutto il 98% dei lavoratori italiani non è coperto. Ora, se andiamo a prendere in considerazione però quelli che sono le paghe salariali, soprattutto quelle basse, nel comparto dei servizi di mercato, notiamo che è un salario giusto per il governo, è un salario che paga 8,5 euro netti all'ora. Capiamo benissimo che non può essere un salario giusto oggi guadagnare 8 euro netti l'ora, e li guadagni a fine mese, ne guadagni appunto 1.500 netti se solo se si lavora tutto il mese e full time, quando in Italia abbiamo un'esplosione invece del part time, quindi il potere d'acquisto finale delle famiglie non sarà minimamente considerato, cioè nel senso non varierà, anzi quello che si può presumere è che a un certo punto molti cominceranno, girando e giocando con gli Ateco come hanno sempre fatto, a pagare salari di contratti di riferimento che sono quelli dei servizi piuttosto che quelli più alti. Una cosa che vorrei ricordare è che questi salari molto scarsi, salari da fame come li chiamiamo noi, rientrano, diciamo, caratterizzano tutto il comparto di sfruttamento e caporalato, che è il comparto dei servizi poi in appalto. Quindi su questo sostanzialmente non hanno fatto niente, hanno istituzionalizzato un rapporto di forza a favore delle imprese. Connesso al tema di questo, diciamo così, salario giusto, tra virgolette, c'è ovviamente il solito sistema di incentivi alle imprese. Sembra quasi che diano soldi alle imprese che sfruttano un po' di meno, è così? Ma guarda, non so neanche se leggere così. Innanzitutto continuano a dare miliardi di euro per incentivare l'occupazione, tra l'altro di categorie svantaggiate, per quelle che non lavorano da più di 2 anni e che non stanno cercando lavoro. Mi dovete spiegare come una donna può essere disposta a lavorare per 8,5 euro netti l'ora, mettiamo, nei servizi, che è un comparto solo rappresentato dalle donne, quando non aumentiamo invece l'occupazione e quindi la produzione di servizi pubblici. Pensiamo all'assistenza agli anziani, pensiamo all'assistenza ai disabili, pensiamo ai servizi educativi. Poi ovviamente un po' qualcuno sarà assunto con quegli incentivi, ma sappiamo che questi incentivi alla fine, okay, vanno molto più nelle tasche delle imprese che non dei lavoratori. Ovviamente devono pagare un salario giusto, che però può essere appunto 8 euro netti l'ora. Ho visto che ci sono anche delle norme sui rider, cambierà qualcosa nella loro tutela? Ma si scrivono un po' di principi generali, che sono appunto quelli che affrontano in generale il principio della subordinazione, che ormai è stato un po' poi è decretato dalle varie inchieste, come sappiamo, della Procura di Milano. Tuttavia appunto rimane sulle spalle dei lavoratori e delle procure incalzare tutti i casi di sfruttamento. Poi noi sappiamo già, dati i decreti della Procura di Milano, che sia Deliveroo che Glovo devono stabilizzare i lavoratori. Allora, questa è una cosa che noi aspettiamo, e non c'è un il decreto non parla di una forzatura, deve soltanto, come dire, lo Stato mettere in atto e forzare queste aziende a farlo. Dall'altro lato però si aggiungono dei principi, come dire, di nuovo la responsabilità sempre non soltanto sulla denuncia da parte dei lavoratori, ma anche tutta questa nuova pubblicità rispetto all'algoritmo. Le aziende sono tenute a informare i lavoratori del funzionamento dell'algoritmo. Lo faranno chi controlla, dove controlla. L'altra cosa che viene fatta, e quindi soprattutto anche per esempio sapendo che il comparto ormai dei rider è tutto un comparto immigrato, spesso anche irregolare, avremo bisogno, come per esempio esiste in alcune informative sull'audit e la qualità dei processi in varie lingue. Questa cosa chi la controlla, chi la stabilisce? L'altra cosa secondo me è molto importante è che loro introducono sostanzialmente l'utilizzo dello speed per poter accedere alla piattaforma, no? In modo tale che non ci sia una persona che agisce da caporale che poi va a creare vari account per i lavoratori. Ora, potete immaginare cosa sia lo speed per un italiano pensato per un lavoratore irregolare o immigrato. Capite che non sta né in cielo né in terra, cioè di nuovo la responsabilità del buon funzionamento sta nel se ti puoi permettere, se sei capace di utilizzare lo speed, a meno che non c'è una deroga da parte delle imprese che utilizza l'identificazione a due fattori, no? Quella col codicino che ti arriva sul cellulare, allora non puoi lavorare. Quindi di nuovo il problema sono i lavoratori, non le imprese che sfruttano. Tu prima hai citato la Procura di Milano, abbiamo visto come la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in questi anni sia avvenuta soprattutto per via giudiziaria rispetto a quella politica. Oltre all'operato appunto in particolare del PM Storari, c'è anche una recente pronuncia della Cassazione che è molto interessante perché addirittura configura il reato di estorsione per i datori di lavoro. Sì, quella è abbastanza interessante, però la minaccia di licenziamento nei confronti dei lavoratori che alzano la testa è reato di estorsione secondo la Cassazione. La Cassazione fa un buon ragionamento, cioè, come dire, molto in linea con l'articolo 36 della Costituzione, ma anche cioè lega l'articolo 36 al principio fondamentale e l'articolo 3 sull'uguaglianza sostanziale, perché sostanzialmente dice che lo sfruttamento e i salari da fame non sono soltanto una questione di libertà, e lo sono. Pagare salari da fame non limita soltanto la libertà in sé o la totale libertà dei lavoratori, ma li pone in una condizione di vulnerabilità e quindi di ricatto. Una persona sotto ricatto è una persona però a suo tempo libera di partecipare alla vita civile, economica e politica di questo paese. È appunto la configurazione del reato di estorsione è molto importante perché aggiunge un pezzo di, se vogliamo, questione penale nei confronti delle aziende, ma di nuovo lì dipenderà da quante denunce, quanti sindacati vanno a denunciare in procura o all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e quanto le procure, come ci ricorda Storari, non tengano sostanzialmente queste denunce sotto la fila di tutto il lavoro che hanno da fare, che proprio ieri, proprio dalla Procura di Milano, ascoltavamo come ormai sono senza risorse e di conseguenza l'attività ordinaria delle procure non può andare avanti. Di conseguenza, se noi blocchiamo, no, di nuovo la possibilità di mandare avanti anche con la buona volontà delle persone di Stato, i funzionari di Stato, capiamo che non raggiungiamo degli obiettivi sostanziali. Quindi insomma servirebbe la politica. Sì, però loro la politica la fanno, ecco, ricordiamoci questo, manca la politica dall'altro lato.